Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo dodicesimo. Ci sono qualche volta dei momenti critici nella vita di un uomo in cui questi, arrivata alla maturità del suo criterio e della sua coscienza, ricorda ed esamina le leggerezze e le follie della sua prima giovinezza e prova talvolta un fremito constatando le violazioni del senso morale alle quali le scapataggini dei primi anni lo hanno inconsciamente trascinato. L'Italia si trova ora in un momento analogo. Constata con terrore che la indulgenza usata verso uomini che si credevano abili, ma si sapevano non troppo onesti, che la sua ammirazione per il successo in politica e negli affari, anche se ottenuto con mezzi biasimevoli, l'ha inconsciamente condotta a concedere una semi-impunità ai truffatori e perfino agli assassini. Come nell'individuo di fondo onesto, i momenti accennati sogliono essere il principio di un periodo di rinnovamento nel quale i doveri della vita vengono più seriamente intesi, più scrupolosamente osservati, così è sperabile che il processo Lothar Bartolo segni per l'Italia la chiusura definitiva del ciclo funesto di errori, di debolezze e transazioni che abbiamo attraversato. È sperabile che le nostre classi dirigenti, edotte dall'esperienza, comprenderanno finalmente che, quando si permette uno strappo alla giustizia e alla legalità, non è possibile prevedere dove lo strappo andrà a fermarsi, e che può, enziando, accadere che esso si allarghi tanto da ridurre a brandelli tutto il senso morale di un popolo civile. Questo sarà il miglior omaggio da rendere alla memoria del Lothar Bartolo, il premio maggiore che potevamo attendere nelle sue virtù civili. Onesto in vita, martire dell'onestà per la sua morte, anche la sua morte diventerà origine di bene se, occasionando l'analisi dei mali particolari alla Sicilia, ne affretterà la guarigione e, provocando un severo esame di coscienza da parte di tutta l'Italia, contribuirà a chiudere la triste era di codardia morale per la quale il nostro paese è passato.